Lui senza pretese, alto, bello, forte. Lei le lunghe attese e brava a fare torte. Lui andava al mare per essere meno solo. Lei andava al mare per incontrare lui. E un giorno accadde a loro due di rimanere soli. E lui col suo dolore trovò riparo in lei. E intanto lui guariva, lei si scioglieva un po'. L'estate li scopriva felice, poi però lui smise di guarire, godeva stare male. E un vento freddo sale su loro due oramai. Ricordo, Rosita, eri la felicità, ed io ti ho perduta e lo volevo, forse no. Ma oggi non so, forse ho sbagliato, forse sì. Di certo è più freddo senza te, di certo è diverso senza te. Troppo tempo andato, lui se le girava, poi la ricordava e il tempo andava via. E un sentimento troppo grande per un ricordo illanguidito, una bellezza ormai scordata, solo appena sperimentata. E pensa, questa non è vita, ma certo no, non è finita. Alzarsi tardi, andare al mare, ma con la voglia di sperare. Potessi andare indietro, ma indietro non si torna. Lo inebriano i ricordi e di quella volta al mare, quando lo sfondo era tropea e la cornice loro due, una sigaretta amara e le certezze vanno via. L'amore, Rosita, quello che mi davi tu, che non ho goduto, che non ho goduto. L'amore sprecato che provavi tu per me, sai bene che non te lo ridarò. Vigliacco, io non te lo ridarò. Ritorna, Rosita, eri la felicità. Per me il rimpianto ora assomiglia a te. E mando messaggi a chi non mi risponderà, a chi era un tempo quello che sarà, a chi era un tempo la felicità.